sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Voi siete qui. Qui. Di Matteo Caccia. Sono le 6 del pomeriggio, ma il sole è ancora alto. Siamo in piedi di fronte alla paladella degli spagnoli. C'è almeno un metro e mezzo d'acqua. Ho le pinne. Percorriamo il prato a monte, fin dove è possibile tuffarsi. L'acqua del Ticino è ancora molto fredda e ha il sapore della neve, come solo in questi giorni di tarda primavera. Faccio 4 bracciate decise e guardo Beppe. Lui ha già tagliato da un po'. La corrente è molto forte e ci trascina più a valle. Lo seguo. Sono Massimiliano Orbini, ho 42 anni e abito a Lonate Pozzolo, tra l'aeroporto di Malpensa e il parco del Ticino. Perché è molto semplice, tutte le storie che arrivano a voi siete qui, sono piccole storie di vita. Essendo piccole storie di vita, girando intorno, quasi tutte sono storie che ci somigliano. A meno che non si tratti di storie particolarmente eccezionali, sono tutte storie che in qualche modo raccontano delle cose, raccontando delle persone di chi è qualcosa, della persona che l'ha scritta, raccontano anche qualcosa di noi. In questo caso però, per quanto mi riguarda, il racconto che Massimiliano fa nella sua pagina dice esattamente una cosa che io facevo da ragazzo. Esattamente, ma la stessa, nello stesso punto, nello stesso fiume. Ecco perché la puntata di oggi è dedicata ai vostri fiumi. Quelli in cui avete passato l'infanzia, quelli in cui passate magari ancora l'estate. Il fiume vicino a casa o vicino alla casa in montagna. Se avete un fiume che è un luogo in cui andate, in cui vi sentite un pochettino a casa, 349-238-6666. Oppure voi siete qui, @radio24.it. Sono arrivati diversi messaggi sul profilo Facebook, molto semplici, come Gaetano, il mio fiume è Lastico, Christian, il mio fiume è Lisarco. Aspetta, dov'è Lastico esattamente? Guarda, i fiumi effettivamente erano la cosa più difficile della geografia, nel senso che tolto il Po, il Ticino, il Tevere, l'Arno, l'Adige, basta, cioè... ti pare che mi ricordi i fiumi di Foligno, Bonini, cioè, Lastico, dov'è Lastico? 349-238-6666. Già Margherita sta cercando dalle parti del Trentino, ma non vale, in Trentino ci sono un sacco di ci sono un sacco di laghi in Trentino. Fabio, in bici nel parco del Ticino è in mezzo alle risaie, ai campi di grano tra Gagliate e Cameri. E poi Riccardo invece mi scrive: il Tevere, ci sono nato vicino e come ogni romano l'ho sempre bellamente ignorato. È vero questa cosa, i romani un pochettino il Tevere, giusto per il lungo Tevere, cioè non è che ci però lo frequenti. Sì, giustamente, non è proprio, diciamo, un luogo di vacanza il Tevere, però è lì. E poi l'Amstel, mi scrive Riccardo, tutta la rete di canali che da essi derivano, perché ad Amsterdam ci sono stato quasi 10 anni, di cui uno ho vissuto su una houseboat, la più bella casa della mia vita. Quindi lui ci viveva proprio sopra al fiume. Virginia, sono seduta sopra l'Arno con vista su Firenze, che mi ha adottata. 349-238-6666, la puntata dedicata al vostro fiume. Visto che ieri, stamattina purtroppo è partito, però ieri avevo ospite qui in radio e a casa il mio amico Rosario, che di fiumi ne sa, visto che sta camminando lungo il Danubio. Stamattina gli raccontavo della puntata di oggi e gli ho letto dei pezzi del racconto di Massimiliano e lui mi ha detto: beh, ma non puoi non leggere I fiumi di Ungaretti. Io ci ho pensato un po' prima di leggere I fiumi di Ungaretti, nel senso che mi sono detto forse Ungaretti alle 4:10 del pomeriggio è un po' troppo, però ci siamo anche detti: ma chi se ne frega. E quindi, Paolino, se tu mi dai proprio una base da Ungaretti, hai presente la tipica base da Ungaretti? Sembra Twin Peaks questa. Mi sembra un cos'è? Sembra David Lynch più che Ungaretti. Vabbè, me la faccio andare bene, va. I fiumi si chiama, di Ungaretti. Ungaretti, Sebastiano. Ungaretti di nome? Ungaretti? Margherita. Ungaretti. Forse Ungaretti è solo il nome. Giuseppe Ungaretti. No, non è Giuseppe Ungaretti. Nessuno si ricorda. Giuseppe Ungaretti. L'Isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie 4 ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Praticamente racconta un po' di tutti i fiumi della sua vita parlando dell'Isonzo, come se i fiumi della sua vita fossero un affluente dell'Isonzo. Questo è l'Isonzo e qui meglio mi sono riconosciuto. Questi sono i miei fiumi. Questo è il Serchio, al quale hanno attinto 2000 anni, forse, di gente mia campagnola, e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere. Questa è la Senna e in quel suo torbido mi sono rimescolato, mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi, contati nell'isonzo. Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare. Ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre. Ce l'aveva quasi fatta, Giuseppe, a stare un po' su. E invece niente, alla fine con la mia vita che mi appare una corolla di tenebre. L'abbiamo fatto, sono le 4:11 del pomeriggio e vi abbiamo sparato anche Giuseppe Ungaretti. 349-238-6666 invece per i vostri fiumi, perché oggi si parla di quello e si parla in particolar modo del fiume di Massimiliano. Ci sono dei giorni in cui il Ticino ci chiama. Sono quei giorni che corrispondono allo scioglimento delle nevi, generalmente compresi tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Io scendo in bici. Beppe, anzi, il Beppe, di solito è già lì. Il Ticino è il posto in cui ho passato l'estate di gioventù. È il posto in cui mi sento ancora un ragazzino, con la paura e il coraggio di tuffarmi nell'acqua scura che ti trascina chissà dove. Ci troviamo di fronte alla Paladella, un cuneo di circa 200 metri in granito che separa le acque del fiume Ticino dal Naviglio Grande. In estate possiamo camminarci sopra. Oggi ci sono almeno 50 centimetri d'acqua. Domani anche di più. Porta le pinne, mi dice Beppe. La Paladella si chiama così perché è costruita con i pali, ancora i pali di legno, come fosse, non so, le fondamenta di Venezia, perché è il separatore, è il punto che separa il Ticino dal Naviglio Vecchio che arriva fino a Milano. D'estate, quando il fiume è proprio secco, su quel pezzo lì ci si può, chi prende il sole, chi gioca, chi chiacchiera. E noi abbiamo fatto anni a giocare a pallone sui sassi a piedi nudi. Sono le 6 del pomeriggio, ma il sole è ancora alto. Siamo in piedi di fronte alla Paladella. Ci sarà almeno 1,5 metri d'acqua. Ho le pinne. Percorriamo il prato a monte, fin dove è possibile tuffarsi. È ancora molto fredda e ha il sapore della neve, come solo in questi giorni di tarda primavera. Faccio 4 bracciate decise e guardo Beppe. Lui ha già tagliato un po' la corrente. L'acqua è molto forte e ci trascina giù a valle. Lo seguo. Sono al limite della Paladella. Tra pochi metri l'acqua, che il canale non sopporta più, si riverserà nel letto del fiume, scivolando sul granito e formando una serie di cavalloni e di vortici. Mi accorgo solo adesso che i miei occhi, a 2 centimetri dal pelo dell'acqua, non vedono le spume dei flutti che si frangono 10-20 metri più sotto. Il rumore è sempre più assordante. Ecco, il punto di non ritorno. Ecco, se non sapevo cosa fosse, adesso è davanti a me. E questo sì, è ben chiaro. Non ci sono mai davvero trovato di fronte a un confine come questo. Il confine dopo il quale non si può tornare indietro. O non lo so, forse sì. E semplicemente non me ne sono accorto. Era nascosto e non ci ho fatto attenzione. Solo ora però, immerso in questa corrente che mi stravolge, riesco a percepirne tutto il fascino. Non ci sono abissi in cui sprofondare qui. Non c'è vuoto in cui buttarsi. Tutto è pieno. L'acqua corre così forte che sembra quasi solida. Eppure questa corrente, questo vortice, ha un fascino terribile, che sa di ultima possibilità. Ti rendi conto quando sei dentro che è una massa d'acqua fortissima e dentro quel vortice tu sei quasi senza controllo, perché i movimenti che vuoi importi sono minimi, ogni pinnata risponde pochissimo, in pochissima percentuale a quello che vorresti fare, e ti accorgi così dopo che hai fatto questa cosa, probabilmente un po' incoscientemente, ma ci si sente davvero più forti. La forza della corrente non mi permette di riattraversare il canale e quindi esito un istante. Incrocio lo sguardo di Beppe e sono dentro. Sono dentro a uno spumone lungo almeno 100 metri. Sento il mio corpo come se non fosse più il mio, come se l'acqua se lo fosse preso per sé. Devo mantenere la calma e fare le cose semplici. Trattengo il fiato. Quando sono sopra respiro, quando sono sotto no. È semplice. Bellissimo. Alzo gli occhi e lo vedo. È un mulinello enorme, sarà largo 3-4 metri, o forse meno, ma da qui sembra larghissimo. Devo stare attento a non farmi trascinare nel mezzo, devo riuscire a prendere il giro e farmi sparare fuori. Se la corrente mi trascina in mezzo, rischio di spiaggiare in Piemonte, 1 chilometro più giù, con 1 chilometro poi di sassi da percorrere a piedi nudi per tornare indietro. Gli spumoni si sono calmati e con 2 bracciate mi tengo all'esterno del mulinello e come in uno scivolo prendo il giro, che mi fa tornare su, verso monte. Vedo il Beppe già vicino al muretto. Un colpo deciso e lo raggiungo. Un toboga naturale, senza uguali. Una lotta contro le forze della natura. Di quel giorno ricordo quel vortice, l'incontro con Beppe, una specie di maestro, e quella discesa per sentirsi un po' più grandi, in un periodo in cui l'acqua ha il sapore della neve. Il racconto di Massimiliano mi è stato subito familiare, proprio perché il Ticino è stato anche il mio fiume da ragazzo. Era l'acqua vicino a casa. Lo raggiungevi in bicicletta e ci passavi tutta l'estate. Avevo un amico con una barca a motore e quando c'era lui facevamo avanti e indietro sotto il ponte di Turbigo, tra la riva piemontese e una piccola isola di sabbia di canne. Ma ci andavo anche da solo e me ne rimanevo su una spiaggetta appartata ad asciugarmi al sole come una lucertola. C'era qualcuno che si tuffava dal ponte di ferro, i più coraggiosi dal livello più basso, quello della strada, i folli da quello più in alto, della ferrovia. I pilastri del ponte creavano dei mulinelli che avevano scavato il letto del fiume e l'acqua era molto più profonda. Solo che quegli stessi vortici erano molto pericolosi e la gente del fiume diceva che il Ticino ogni anno se ne prendeva qualcuno. Ero troppo piccolo per trovare il coraggio per fare certe cose e non ero abbastanza sconsiderato da farle senza pensarci. Ci ho sempre pensato troppo prima di fare le cose. Qualsiasi cosa. E lo faccio ancora adesso, ovviamente. Ci penso sempre troppo. Poi delle volte riesco a smettere di pensare, altre volte invece no. E poi da lì, per il resto del tempo, penso al fatto che non ho fatto quella cosa per il troppo pensarci. Vabbè, questo è il tipico avvitamento riflessivo, quindi usciamone, altrimenti sembra di stare in un mulinello del Ticino. Comunque ancora adesso io del Ticino non mi fido troppo. Gli getto sempre un'occhiata veloce quando in autostrada torno a Milano dopo essere stato dai miei. Ecco perché alla fine le cose più pericolose che ho fatto su un fiume non le ho fatte sul Ticino. Le ho fatte sul Sesia. Il Sesia è un fiume di montagna, o meglio per me è un fiume di montagna, perché l'ho sempre vissuto là, appena sotto al Monte Rosa. Quindi l'ho sempre visto stretto e arrabbiato, e l'ho sempre sentito gelido, come il ghiaccio, anche in estate, anche con il sole forte. Un paio d'anni fa, forse di più, insieme al mio amico Federico abbiamo fatto un corso di kayak sul Sesia. Viste le rapide e i salti d'acqua, un po' tutta la Valsesia è piena di scuole, nei corsi di rafting, canyoning e tutte quelle robe che si fanno sui fiumi stretti e ruenti. Non so perché noi decidemmo di fare kayak. Comunque fu un corso velocissimo, durò un paio di giorni. E in quei due giorni cambiammo due istruttori. In due giorni non si impara nemmeno a usare la pagaia e infatti non mi ricordo praticamente niente. A parte un insegnamento preziosissimo di Roberto, che era l'istruttore del secondo giorno, che nel pomeriggio, a chiusura del corso, decise di farci scendere un pezzo di rapide un po' più complicato degli altri. Praticamente il fiume si stringeva e quindi la velocità dell'acqua aumentava. In più, dopo una spiaggetta sulla sinistra, scendeva di un paio di metri in maniera molto ripida. Quindi l'acqua faceva dei giri assurdi e noi dovevamo pagaiarci dentro, cercando di non intraversarci, e poi uscire da lì, dove il letto si allargava e all'improvviso l'acqua diventava placida. Il tutto però era complicato dal fatto che proprio nel mezzo delle rapide c'era un masso bianco enorme, grande quanto una 500. E dandoci istruzioni per scendere, Roberto ci disse una cosa che ancora io mi ricordo. Ci disse: quando arrivate alle rapide, tenetevi a destra o a sinistra di quel masso bianco. Puntate a destra o a sinistra, ma non guardate il sasso. Se lo guardate, ci andate sicuramente a sbattere contro. Ora, è ovvio che basta che uno ti dica una cosa così per fare in modo che tu non faccia nient'altro se non esattamente fissare quel masso per tutta la discesa. Io riuscii a non finirci contro nonostante tutto, solo che mi intraversai nella corrente e mi rovesciai. Ora, se non siete mai stati in kayak, quando ti rovesci in kayak hai le gambe infilate in una specie di tubo di plastica e sei con il busto sott'acqua, esattamente perpendicolare alla superficie che si trova appena sopra il tuo sedere. E quella volta lì, probabilmente come in mille altre volte, mille altre piccole volte, io ebbi la sensazione che non ne sarei uscito. Che non ne sarei uscito perché non c'era verso di uscire da quella canoa ribaltata. O meglio, un modo c'era, cioè un modo c'è e si chiama Eskimo, solo che quella è una manovra molto complicata che non impari in due giorni. Insomma, quell'attimo è stato lunghissimo e poi ne sono uscito semplicemente sfilando le gambe dal kayak e uscendo a respirare. Ricordo bene, però, quell'attimo in cui ebbi la sensazione di non farcela, di aver superato il confine oltre il quale non sarei potuto ritornare. È stato breve, ma mai abbastanza. Ecco, da quel giorno però ho imparato una cosa. Ho imparato a non guardare il masso. No windy smiles, no walk down the aisle. No flowers, no wedding dress. That night we went down to the river. Then into the river we died. Oh, down to the river we did ride. L'Astico, mi dicono, è un torrente che passa per Breganze, la zona dell'Alto Vicentino dove è nata la moto Laverda. Nel fiume Astico a 6 anni con la creta davamo forma alle nostre fantasie. Gianluca, fiume Foglia a Pesaro, vado ad incannarci i pomodori. Non avete proprio niente di meglio da fare, eh? Ma chi? Noi o lui? Non ho capito questo. Cioè, non abbiamo niente di meglio da fare che incannarci i pomodori? La Piave. Ecco, abbiamo scoperto questa cosa, che non si chiama il Piave, si chiama La Piave. Però è in Veneto probabilmente, perché è il Piave, mormorò, non passa lo straniero, non La Piave. Comunque, La Piave, io sono di San Donà di Piave, ho passato la mia infanzia tra pesca, bagni e corse sugli argini a rotolare giù. 349-238-6666, non di tutti i fiumi parliamo adesso, parliamo di un fiume in particolare che è il Ticino e parliamo con Massimiliano. Pronto Massimiliano? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, tu? Bene, bene, grazie. Okay. Senti, tu sei esattamente di Lonate Pozzolo, sì. Che vabbè è lì proprio... al confine, giusto? Però me la rispieghi esattamente cos'è la paladella degli spagnoli, perché non l'ho capito bene. In effetti è difficilissimo da spiegare, diciamo così, a parole, ma sarebbe proprio la presa del Naviglio Grande, insomma, che hanno costruito, sarà nel 1500, insomma, gli spagnoli, per quello che si chiama così. E tu immagina questo lastrone di granito appoggiato su un telaio fatto ancora di pali di legno, a pelo d'acqua quasi, cioè quando il Ticino è in secca rimane fuori qualche centimetro d'acqua proprio parallelo alla linea del canale. Ma scusami, ma non è quel pezzo che si vede venendo da Malpensa? Sì. Facciamo un po' di geolocalizzazione. Venendo da Malpensa e costeggiando il Naviglio, a un certo punto c'è una specie di chiusa che poi si butta nel Ticino, non è quello? Sotto... è quello che si vede dal ponte di ferro che tu fai sulla strada che va da Bustoleggio, quando fai il ponte di ferro che c'è su quella statale lì, è quello che vedi a sinistra, è proprio un cuneo di granito. Magnifico, Massimiliano, siamo io, te e probabilmente altri 100 in questo momento che stanno ascoltando a sapere di cosa stiamo parlando, però più o meno più o meno una cosa del 1500 addirittura. Sì, sì, sì. L'hanno appena restaurata, hanno cambiato qualche masso, proprio sono 2 anni che d'estate fanno la manutenzione e infatti sotto adesso anziché lasciare i pali hanno messo un po' di cemento in alcuni punti, insomma hanno cambiato una cinquantina di lastroni. Ma ci vai ancora Massimiliano? Ogni tanto sì, tu calcola che questo adesso, beh, adesso è un paradiso degli extra, perché poi oggi sono da 2 anni che ci sono questi lavori, c'era una strada per poter arrivare facilmente, quindi gente che ci andava a fare le griglie, insomma lasciavano lì di ogni cosa. Senti, che lavoro fai? Però tu Massimiliano nella vita? Io lavoro nell'azienda familiare, insomma abbiamo una fonderia, facciamo dei getti in alluminio. Ma lì a Lonate Pozzolo? Sì, a Lonate Pozzolo, sì, sì. Ma è grande? No, no, è una piccola azienda, insomma, sono gli ultimi eroi della metallurgia, insomma. Siete gli eroi della metallurgia? Nel senso che resistete? Sì, sì, ormai noi e cinesi, basta. Ma voi e cinesi? No. Che cosa fate? Che tipo di cose fate? Ma, non so, facciamo dei getti medio piccoli, insomma, ad esempio, non so, il piede tangone o il bicchiere che magari hai presente, che avrai magari visto su qualche barca, noi lo diamo grezzo al nostro cliente che poi lavora e loro lo analizzano. Quindi anche cose piccole, cose molto piccole. Senti, ma sei in fonderia in questo momento? No, no, adesso sono in ufficio. Cioè, beh, sei nell'ufficio della fonderia. Certo. Senti, Massimiliano, l'ultima cosa e poi ti lascio andare. Il Beppe che fine ha fatto? Beppe l'ho appena visto, perché quest'anno c'è stata una piena un po' anomala, perché verso luglio ha fatto delle piogge pazzesche su Svizzera e ormai il Ticino è regolato dalle dighe che ci sono a Sesto, hanno lasciato libero e per 2 giorni c'è stata un'acqua pazzesca. Io ho visto il Beppe sotto il gesso, io alla casa della camera dove partivano i barconi, e fa, ma ti ricordi? Sì, mi ricordo. Ma il Beppe, scusami, cosa fa nella vita? Sta sul fiume il Beppe? Io voglio immaginarlo così, ma Beppe davanti al fiume. C'è, cioè, una figura mitica, era il nostro punto di riferimento, no? Lui ha qualche annetto più di noi, pensa, aveva, non so, aveva già il tatuaggio della pace e 20 anni fa voleva cancellarlo perché iniziava a diventare di moda, no? Cappello un po' lungo, stempiatino, era, cioè, un eroe. Mi ricordo un personaggio che c'era dalle mie parti che si chiamava Sandro e siccome era sul fiume lo chiamavano Sandrocan. Massimiliano, ti ringrazio moltissimo, ti auguro buona fortuna e a presto. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Voi siete qui. siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Massimiliano ha addosso una maglietta, uno zaino in spalla e degli occhiali da sole. Ha i capelli cortissimi, rasati quasi a zero. E ha un'espressione strana però, perché ha la bocca molto stretta e socchiusa, come se stesse fischiando o se stesse facendo una smorfia, probabilmente. Non si trova sul fiume però, si trova al mare. 349-238-6666. Allora, abbiamo capito la questione della piave o il piave. E cioè, si dice la piave, mi scrive Jacopo da Milano, ma dalle parti del piave, cioè, no, della piave a sto punto. Fu D'Annunzio a volerlo mascolinizzare per retorica, come fiume sacro alla patria, e renderlo appunto più retorico, come è sempre stato la piave. Poi invece Armando da Pescara è un po' più preciso, dice, si dice proprio la piave, così come i nostri vecchi dicevano la Pescara, o in Liguria chiamavano la Magra. Alcuni fiumi erano femmine e oggi sono rimasti in pochi maschi. La virilizzazione, a cominciare dal Piave, è probabilmente avvenuta in periodo fascista. Armando da Pescara, e poi anche altri dicono tutti i fiumi addirittura andrebbero declinati al femminile, però non mi sembra. Cioè, non ho mai sentito dire la Ticino, o la Po, o la Tevere, no? A proposito della Tevere, Lorenzo, il mio fiume preferito è il Tevere, con le zoccole più grandi del mondo. Credo che le zoccole siano le pantegane, no? I topi da fiume di Fogna. Il Natisone, a Cividale del Friuli, il più bello di tutti. Cioè, la metà dei messaggi che arrivano sono campanilismo puro. Il più bello è quello lì. 349-238-6666. Quando si parla di fiume, a me viene... insanamente in mente sempre Cesare Pavese. Mi viene sempre in mente insanamente in più occasioni. In questo caso però in maniera particolare, perché c'è una raccolta di tre romanzi brevi che conoscerete chiaramente, che si intitola La bella estate. Sono romanzi di formazione, direi, che parlano di un periodo piuttosto spensierato della vita dei protagonisti, che è quello della gioventù e della fuga prima dell'inizio della vita adulta. La bella estate è una raccolta di tre romanzi brevi, appunto, che sono: uno si intitola proprio La bella estate, uno si intitola Tra donne sole e l'altro è Il diavolo sulle colline. Nel Diavolo sulle colline, che è quello che preferisco in assoluto, ci sono dei pezzi in cui lui parla proprio di questo fiume, in cui va a riposare, in cui rimane sulla spiaggia da solo per ore, non lui chiaramente, il protagonista, e poi parla del Po. In quell'estate andavo in Po un'ora o due al mattino. Mi piaceva sudare a remo e poi cacciarmi nell'acqua fredda, ancora buia, che entra negli occhi e li lava. Andavo quasi sempre solo, perché Pieretto a quell'ora se ne dormiva. Se veniva anche lui, mi governava la barca, mentre io nuotavo. Si risaliva a forza di remo la corrente sotto i ponti, lungo le rive murate, e si sbucava tra gli argini e le piante, sotto il fianco della collina. La collina sovrastante era bella, al ritorno, fumando la prima pipa. E per quanto fosse giugno, a quell'ora la velava ancora un'umidità, un fiato fresco di radici. Fu sulle tavole di quella barca che presi gusto all'aria aperta e capì che il piacere dell'acqua e della terra continua di là dall'infanzia, di là da un orto e da un frutteto. Tutta la vita, pensavo in quei mattini, è come un gioco sotto il sole. When the trees were budding early and the birds began to sing, but early in the autumn, when the fruit is in the wine, I return to you, my darling, from the river in the pine. Confesso che io ho un debole per le puntate come questa, cioè ho un debole per i racconti come questi, nel senso che in un racconto di una pagina in cui c'è un episodio minimo della vita di una persona, come quella di Massimiliano, che ha a che fare con un fiume, viene fuori una puntata in cui si parla di fiumi e in cui si raccontano cose che magari non c'entrano l'uno con l'altro, ma hanno un denominatore comune, che è quello. E poi arrivano messaggi come questo: amici del Ticino a Besate, ma senza niente, sembra una sagra, cioè dacci anche le date. E poi qualcuno che addirittura sostiene di avere una sorgente in casa. Nel mio giardino, scrive Paolo da Grate Conturbia, nasce il terdoppio, che dopo Vigevano entra nel Ticino. E poi Paolo invece mi spiega che quella cosa che descrivevo prima a Massimiliano non è la paladella dei spagnoli, ma è la presa del naviglio che arriva a Milano. vabbè, non ci ho capito comunque moltissimo, ma ti ringrazio. Il mio fiume è il Brenta. Ho imparato a nuotare. Asciugavo le mutande correndo in bicicletta per non farlo sapere ai miei genitori. Francesco, piove di sacco, Padova. Il mio fiume è un fosso, invece, mi scrive Claudio. È un fosso per irrigare i campi. Gallotta. D'inverno col ghiaccio ci scivolavo. D'autunno col retino prendevo i boss. I boss? I bossi, forse, non lo so. E ora da grande mi rinfresca quando lavoro al caldo estivo. Ciao, Claudio da Cremona. E poi ancora il Vomano in Abruzzo. Mega lezione di geografia questa. Il Vomano in Abruzzo, mio nonno mi ci portava sulle spalle all'alba. Fantastico, sento ancora l'aria fresca e il profumo di campagna. Mario da Pescara. Da Pescara. Si è parlato di fiumi oggi. Domani si parla di tutt'altro. Ma prima di domani ringrazio tutti quelli che fanno sì che questo programma avvenga e sia messo in onda. Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era quella di Massimiliano, appunto, e parlava di fiumi. La storia di domani, invece, è la storia di Elisa e racconta di quel momento in cui si perde qualcosa che c'è molto caro. E così mi misi a pregare che non le tagliassero la coda, che qualcuno la trovasse e si prendesse cura di lei, meglio di come l'avevo fatto io. Mi sentivo addosso la sua paura, tutta la sua delusione. Il giorno dopo i miei genitori mi comprarono un'altra pecora. Sorrisi per farli contenti, ma quella finì subito in fondo alla valigia.